Intanto con Walter Malosti, direttore di ERT, si parte. Io ne approfitto per fare complimenti non solo per i risultati ottenuti, anche per bellissimi approfondimenti sulla lettura che mi hanno tenuto compagnia la scorsa stagione. E intanto che cambiamo anche, non dico parola d'ordine, ma messaggio iniziale, e per quale motivo e con quale soprattutto motivo di cambiamento vi è da Turn the Face and Strange a Cielo e Terra? Nuovo cielo, nuova terra, insomma, è uno dei versi di Antonio Cleopatra. In realtà arriva da un tormentone, perché diciamo è uno scambio brevissimo di battute tra loro due, in cui Cleopatra, un po' come nello spot team di tanti anni fa, sì, dice: ma quanto mi ami? Sì. E l'altro, Antonio, che è una specie di istrione, gli dice: ma contare l'amore da mendicanti? E l'altro dice: no, io voglio che io voglio stabilire un confine entro al quale io posso essere amata. Che è interessante, che tu fai un dibattito legato alla donna in questo momento. Lui dice: vabbè, allora se vuoi farlo, dovrai scoprire un nuovo cielo e una nuova terra. Cioè, sono due personaggi, appunto, straripanti, che rilanciano continuamente al di là. L'anno scorso era, appunto, questo titolo che è dato alla stagione, era Turn and Face the Strange, cioè voltati e affronta l'ignoto, lo strano, lo stravagante, quello che non conosci sostanzialmente, no? Dopo essersi voltati, ora dobbiamo scoprire, certo, tracciare nuovi confini, cioè andare, camminare, muoverci, no? Certo. E connettere, diciamo, che è importantissimo, sia la parte materiale che la parte immateriale di noi, no? Quindi il cielo e la terra, non soltanto, appunto, così astrattamente la parte spirituale, ma qualcosa che va al di là di noi, della semplice materialità. Ecco. Parlando spesso di musica col mio lavoro, dico sempre: non ci sono, o almeno sono indicativi, i generi musicali, non c'è epoca, c'è musica che può piacere e musica che magari ci piace di meno. Allo stesso modo, ha avuto durante questa conversazione iniziale un approccio simile con l'espressione teatrale. E questa è la chiave, diciamo così, del percorso, e perché no, usiamo anche questa parola, del successo, per arrivare a fare un buon programma. Ah, sì, ma perché devi dare al pubblico cose di qualità. È come fare come essere un buon produttore, no? Di dischi. Devi, certo, devi comunque fare un buon arrangiamento, devi spingere l'artista a dare il meglio, no? Il mio compito è un po' quello: selezionare e da produttore, quando produciamo gli spettacoli, dare la possibilità all'artista di fare di esprimersi attraverso la sua identità migliore, no? E anche stimolare, aiutare, no? Per quanto è la nostra possibilità. Sì, si parlava di tradizione e di innovazione, anche questo è un bel bilanciamento. Sono due termini in realtà che vanno sempre insieme. Infatti, cioè tutti i grandi, se rimane sempre all'ambito musicale, tutti i grandi musicisti sono dei grandi ricercatori, e quindi anche in teatro chi va avanti, chi sente lo spirito del tempo, ovviamente ricerca, perché è in ascolto. Un sogno. Ah, il mio sogno? Il mio sogno è che, appunto, tante persone che non mettono piede a teatro lo facciano. Persone che magari, appunto, come dicevo anche in questa conferenza, magari sono a disagio a entrare in un luogo come il teatro, che sentono la possibilità. Noi offriamo, ovviamente, ci sono tantissime possibilità, diciamo, di aiuto sociale per poter assistere a uno spettacolo, no? Quindi, insomma, il costo, diciamo, è uno dei problemi minori. Credo che sia proprio invece l'abitudine a considerare questo luogo come uno dei luoghi importanti per la propria vita. Io la ringrazio tantissimo e le auguro una buona stagione. Grazie a lei.